Quando la notte di buio si veste, quando la tua casa ha le finestre tutte rotte, quando ti sembra aver perso ogni speranza, derisa ogni giorno dagli sciacalli dell'arroganza. Non lasciare entrare neanche un pizzico del loro dire, non lasciare entrare neanche un pizzico del loro fare. Chi si nutre di menzogna non avrà mai pace. Sono rami secchi che neanche il fuoco vuole avere. La tua schiera di pensieri è una roccia, la tua poesia. Tu che non inganni il cielo nella tua dolce pazzia. Torneranno a rifiorire sulle strade nuovi giorni. Non ti perdere in fandonia, tu sei il frutto dei miei sogni. Lascia entrare un po' di sole nel tuo cuore. Lascia entrare chi dà la parola il suo vero colore. Lascia entrare un po' di luce nel tuo mare. Lascia entrare che la vita ti appartiene. Lascia entrare un po' di sole nel tuo cuore. Lascia entrare chi dà la parola il suo vero colore. Lascia entrare un po' di luce nel tuo mare. Lascia entrare che la vita ti appartiene. Voilà. Restano aperti i cancelli del porto, anche se sembra che hanno tutto distrutto. Pietra su pietra per sepolcri imbiancati, nero su nero, gli onesti umiliati. Tu sei il mio canto, il mio fiume, il mio ponte, che è proprio in crisi profonda questo sistema occidente. Siamo alle soglie di un nuovo orizzonte. C'è da cambiare la rotta prima che ci annienti il niente. La tua schiera di pensieri è una roccia, la tua poesia. Tu che non inganni il cielo nella tua dolce pazzia. Torneranno a rifiorire sulle strade nuovi giorni. Non ti perdere in fandonia, tu sei il frutto dei miei sogni. Lascia entrare un po' di sole nel tuo cuore. Lascia entrare chi dà la parola il suo vero colore. Lascia entrare un po' di luce nel tuo mare. Lascia entrare che la vita ti appartiene. Lascia entrare un po' di sole nel tuo cuore. Lascia entrare chi dà la parola il suo vero colore. Lascia entrare un po' di luce nel tuo mare. Lascia entrare che la vita ti appartiene.